giornale, di là la sapatina, di là il cavallo, corra le spalle da loro, corra l'arco. Sottatina, la fina capaggio, brana